voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese. Nona puntata. In quelle sere Carletto trovò da cantare in un cine. Era a casa del diavolo, oltre d'ora, un bel pezzo. Me ne intendo, mi disse. È tale quale un gran teatro. Qui gli serviva più la gobba che la voce. Cantava la storia di un ebreo che era incinto di schiena, e come alle donne gli cresce la pancia, lui cresceva quella gobba vista d'occhio. Poi sulla gobba due ragazze gli piantavano una fiamma tricolore, cantavano «Va fuori d'Italia» e gli davano calci. La gente rideva e fischiava. Lavorò qualche sera così, guadagnò 20 lire, poi lo misero fuori sul serio. Io per fargli coraggio gli dissi che andassimo a cantare insieme. Nei cortili alla peggio ci buttano l'acqua in testa. «Io per me ce la faccio», disse lui. «Non credere». Allora andammo con chitarra e canzonetta nei cortili fuori mano. Io lo feci così per provare. Mi rendeva di più una condotta con Milo, ma volevo aiutare Carletto. E poi ridurmi a questo punto mi sfogava. C'era un piacere di sentirsi a terra, di essere come schiacciato e non cedere. Girammo tutta una mattina. Dopo un poco lasciammo i cortili e cantammo per strada. Per me era niente, ma Carletto venne rauco. Lo accompagnavo solamente, stavo attento ai portinai, ma a raccogliere i soldi che le serve buttavano non ero capace. Mi sembrava di andare per cicche. Mi stupì quanti soldi piovevano. Dissi a Carletto, sono tuoi, devi raccoglierli. Tutto insieme non fece 2 lire. Lasciavo Milo e mi trovavo con Carletto. Stando con lui sentivo meno la giornata. Non parlavo di Linda. Mi bastava sapere che lui lo sapeva. Ero ancora intontito. Mi sentivo un affanno nel sangue. Non potevo guardare una donna. Quelle mattine fresche, fresche. Quelle sere da prato. Chissà com'era il mare adesso. Certe volte pensavo che Linda, potendo, mi avrebbe ripreso. E mi veniva compassione anche per lei. Quante volte l'avevo piantata e ripresa. Forse era lei che ci soffriva più degli altri e scherzava così perché tanto sapeva. Forse quello che adesso capivo, anche Amelio l'aveva capito. E allora tutto era deciso da quel giorno che era venuta nel negozio a dirmi Pablo. E di nuovo sentivo graffiarmi nel sangue, perché di me si era servita per giocare. Tu, Carletto, gli dissi, ti è mai successo che una cosa era decisa da qualcuno prima ancora che tu la facessi? Parlammo un pezzo e lui diceva che è così per tutti quanti, che c'è sempre qualcuno che si mette di mezzo e vorrebbe dir la nostra e non si può. Ma il bello invece è dir la nostra. Si capisce, mi disse, ma troppa gente ha un interesse a comandarti. Non è questo che dico, voglio dire le cose che si fanno per capriccio, il bicchiere che bevi, la cicca che fumi, le ragazze che trovi. Troppa gente ha interesse, quello che bevi e che fumi lo dice il padrone. E le ragazze? Te lo dice il padrone. Se non puoi lavorare e guadagnare, me le saluti le ragazze. Non capii più quel che volevo dire. Lui, Carletto, aspettava con gli occhi da gatto. Avevo in mente un'altra cosa, ben diversa. Vedi quel che han fatto in Italia, mi disse. Sei padrone di muovere un dito. Puoi lavorare se non hai la carta? Se non chini la testa, ti danno un boccone? Io vado in camion senza niente. Quel che puoi fare è suonare la chitarra e in sordina e nemmeno cantare perché prendi la multa. Ecco, pensavo, la chitarra. La chitarra è una cosa che faccio se voglio. A Novara ci vado se voglio. Alla Tampa ci vado. Con Carletto discorro. Tutto quel che faccio così per capriccio lo faccio da me. Ma le cose importanti, le cose che buttano a terra, queste succedono per conto loro. Vengono addosso come un camion, come una brutta polmonite, e dietro c'è qualcuno che ci gode e che gioca. Chi vuoi che sia? Il Padre Eterno, disse lui. Se allora c'è, c'è dappertutto, dissi ancora. Anche dietro alle cicche, alle torri littorie. Vennero sere che sapevano un odore di campagna. Quanto avrei dato per andare al paradiso come prima. Queste sì che erano notti da farci l'amore. Alle volte guardavo passando certe vetrine da donne. Milo voleva che portassi la chitarra con me e una domenica Pianezza mi fece suonare sul muretto di un ponte mentre passavano ragazze. Si misero perfino a ballare. Da quel muretto si vedeva la pianura e pareva un terrazzo di Genova. Questa volta capii che ero storto sul serio. Mi venne voglia di buttare le ragazze giù dal ponte e fortuna che c'era da bere e che Milo rideva. Ma ne avevo abbastanza e capivo che ormai tutta quanta Torino e il mestiere, e le strade, le pietre di casa non bastavano più a darmi pace. Neanche l'idea che Carletto non aveva da mangiare mi teneva tranquillo. Diventavo carogna. Vederlo affamato mi disgustava perché capivo che se avesse avuto i mezzi mi avrebbe piantato anche lui. «Non c'è pericolo», mi disse. «Non vuoi mica che parta senza farmi un vestito? A Roma non posso arrivare così». Mi parlava di Roma, come Milo di donne. Mi diceva che Roma è una grande città dove tutti ci mangiano e danno da mangiare. «C'è tanto grasso», mi diceva, «che lo senti nell'aria. Nessuno chiude nemmeno la porta di casa. Là si vive e si mangia per strada». «Non è piena di torri littorie?» Lui ghignava e abbassò la voce. «Anche a questo qualcuno ci pensa», disse. «Ci sono i dritti, ne conosco». Poi raccontava che le strade sono fatte a montagnola e che dietro ai palazzi si vedono i pini. «Si può star fuori notte e giorno», mi diceva. «A quest'ora è già estate. Roma è tutta osteria. Ci fa sempre sereno. Giri di qua, giri di là, vai fuori porta. Dappertutto la gente ha merenda che gode. Tu hai la chitarra, faresti fortuna». Finì che un mattino dissi a Milo: «Vado a Roma». «Non è mica Pianezza», rispose. «Si sta fuori 6 giorni. Voglio andare e restarci». «Ti costa meno farla in treno», disse lui. «Siamo in 2. Allora Milo mi guardò e mi disse: «Buono». Quando arrivai a Roma sul camion che Milo mi aveva trovato, ero contento di aver fatto tanta strada e che al mondo ci fossero degli altri paesi, delle città, delle montagne, tanti posti che non avevo mai visto. Arrivammo di notte. Carletto dormiva appoggiato al conducente. Ci eravamo fermati a cenare in un paese di mezza collina e in quella bettola con 2 corna di bue attaccate al soffitto e i paesani che gridavano come se fossero signori, avevo smesso di pensare a casa mia. Era bello pensare che Amelio non era mai stato laggiù. «Questa volta», dicevo a Carletto, «l'abbiamo decisa noi altri». «Non si sa ancora», disse lui, «c'è andata bene». Faceva fresco quella notte e il conducente ci lasciò in fondo a un viale sulla riva del fiume. Io non volevo andare a casa e svegliare le donne. «Camminiamo per Roma», dicevo. «Fra 3 ore è mattino». Ma avevamo chitarra e bagaglio. «E se passa una ronda», diceva Carletto. Dorina stava su una piazza in capo a un ponte, e Ponte Milvio. Io camminavo e mi guardavo intorno. C'erano case a 10 piani e da ogni parte le colline illuminate. Non passava nessuno. Sembra d'essere a Torino nel centro, dicevo. E invece siamo in barriera. Mi svegliai l'indomani in casa d'altri, su un sofà basso basso. Non ero in casa di Dorina. La notte, vedendoci, Dorina e le figlie e la nonna avevano fatto tanto chiasso che le porte vicine si erano aperte e siccome non c'era altro posto, ma aveva preso in casa sua una vecchia grassona che spuntò sulla scala in camicia da notte e con Dorina si gridarono come fossero in urto. Ma era il fare di Roma e la vecchia mi disse di entrare da lei che non aveva ragazze e le piacevano chitarre e giovanotti. Mi misi a letto, fui contento di lasciare che gli altri si facessero festa. Mi svegliai l'indomani ai rumori della strada, ma la casa era zitta e faceva giorno da un pezzo. Ma accorsi subito che l'aria era diversa e sembrava più chiara e più asciutta. Era come il sereno di luglio in un giorno di gennaio. «Che cos'è questo odore?» dissi alla vecchia che girava. «È il caffè», disse lei. «Ne volete una tazza?» Ma non era soltanto il caffè. Quando uscii lo sapevo. Sulla piazza, davanti alle 2 statue del ponte, c'era una squadra di stradini che bollivano il catrame. Anche Roma è un paese civile, pensai. Ci sistemammo che dormivo dalla vecchia, la Marina, e mi vedevo con Carletto tutto il giorno e mangiavo con loro. Dorina era ancora più grassa della foto di Genova. Sembrava una mamma, la mamma di Carletto, ma era giovane. Girava per la casa in vestaglia e gridava alle figlie. Ne aveva due bambine, erano le figlie di un socialista che era dentro. Caso strano, Dorina, che sapeva cantare e che aveva cantato, non parlava dell'arte. Trattava me e Carletto come fossimo dei poco di buono, dei perditempo giocoloni. Ma come disse subito che ero stato un tesoro, non ci pensassi e andassi a spasso. Non mi chiese che cosa avrei fatto per vivere. Le offrì dei soldi e non li volle. Disse a Carletto che al teatro lo aspettavano e Carletto ci andò e fu accettato. Io pensavo che quando una donna ti prende per figlio, o è già sposata o tu sei gobbo. Come facesse a divertirci sì Carletto non lo so. Era proprio un ragazzo Carletto e ghignava. Quando gli dissi che tutto capivo, ma non rubare la ragazza a chi è in prigione, mi rispose che una donna si ruba sempre a qualcuno e bisogna sbrigarsi, perché poi viene il giorno che la rubano a te. Ma è in prigione, gli dissi. Si sa già, disse lui, chi va in prigione lo sa che la donna si passa. Non puoi vivere a Roma senza farci l'amore. Uscimmo insieme con Dorina e andammo a cena in trattoria. A lei piaceva accompagnare il suo Carletto al Varietà. Era un piccolo palco in un cinema del centro e la gente intorno gridava e parlava come fosse la piazza del paese. Carletto, finito il suo numero, tornava da noi. Si mangiava insalata e frittelle. Quel vino giallo non mi piacque il primo giorno, ma poi ci feci la bocca e bevevo e cianciavo. È un destino, dicevo a Dorina, che dappertutto dove vado vivo sempre all'osteria. Tu non hai una casa, mi disse. Il tu me lo diede più tardi, ma tant'è. Esco appena da casa, sono sempre stato fra sottane. Ci stai bene, mi disse. Devi restarci se vuoi farti una tua casa. Io la guardavo e ridevo. Mi piaceva di Roma proprio quel fare perditempo che si sente nell'aria. Se bevevo un bicchiere non era più come a Torino. Non bevevo di rabbia e così per torcermi il sangue. Tutto, la gente, quelle case, il vino chiaro, me lo sentivo entrare dentro e ricrearmi. Sapevo di viverci e che avrei lavorato, che avevo dietro tanta strada e le montagne. Mi faceva l'effetto ogni giorno di scendere allora dal camion e che, volendo, tutto il mondo era una strada come Roma. Se mi tornava con la rabbia di Torino, stringevo i pugni, alzavo gli occhi, mi muovevo e pensavo che Pablo era a Roma. Bastava, ero un altro stavolta. Con quei pochi che mi ero avanzato da casa facevo la mia figura. La Marina mi prendeva 100 lire, mi dava il caffè, mi lavava la roba. Le comprai delle arance, una volta suonai la chitarra. Era grassa anche lei, ma così vecchia che non poteva camminare. La mattina se ne restava seduta in camicia e sottana e mi guardava farmi la barba, mi diceva che ero giovane. In quel letto, mi disse, ci aveva dormito una bella figliola, più bella ancora di Dorina, più fresca e più giovane. Si pettinava quello specchio come me, si lavava la bocca quel mio lavandino. Era bruna, si chiamava Rosario. Quanto chiede? Le dissi voltato allo specchio. La Marina seduta rideva. Voi di Torino mi piacete, chiacchierò. Non sapete mangiare il finocchio. Volete arrivare subito alla polpa e buttate via tutto. Non ha polpa il finocchio. Qualche volta ci resta nel gozzo, le dissi. Ma Rosario, mi disse, era un'altra faccenda. Da 2 anni faceva fortuna. Era stata a Fregene, ci aveva trovato un signore coi fiocchi. Era sua mezza Roma. Lei lo bagna nell'olio il finocchio, dissi. E Marina a spiegarmi che Roma era come una botte. Si dimenava sulla sedia e si lagnava. Se non fossi una vecchia, diceva, a noi romani piace troppo mangiar bene e andare a spasso. Siamo al punto che vedi, quando son nata si viveva in Campitelli. Per venire qua giù la domenica dovevi fare testamento. Ebbene, credi che tutte le case, le strade, i palazzi del Flaminio fin qua li abbiano fatti i romani? Ne ho viste tante, credi a me. Tutto voi altri avete fatto, voi siete, tutto voi forestieri. Noi si aveva le pietre e chi sapeva che erano soldi? A me le pietre non mi dicono, risposi. Tu non fare Carletto, mi disse. Quando ti ho visto la chitarra nelle mani ci ho patito. Con tanto che godo sentirti suonare, voglio vederti far di più. Prendi anche lui, prendi il padrone. Quello viene dai vostri paesi. Allora uscivo e andavo a spasso. Mi guardavo le strade, i palazzi, e ce n'erano di così vecchi e mai visti che soltanto i romani ne avevano fatti. Non ci potevo quasi credere che della gente come me ci avesse messo la mano. Anche l'aria, il respiro era un altro. C'erano colline e certe piante che da noi non si vedono. Quella vecchia marina diceva per dire, se stavo bene in quelle strade era soltanto perché tutto mi pareva un'altra cosa. Eppure a volte, attraversando Ponte Milvio le sere di luna, c'era quel salto di collina sopra il Tevere e quei boschi lontano che sembravano i boschi del Po e la scarpata di sassi. Tutti i paesi visti sotto una collina sono uguali. Mi piaceva più quel pezzo che i palazzi di Roma. C'era un viale di platani allo sbocco del ponte che mi pareva il Valentino o Stupinigi. Ci passavano molti camion che andavano fuori. Nelle osterie si vedevano stradini e muratori, c'era odore di calce. Tutto il giorno battevano mazze e piccone. Anche a Roma lavorano, mi disse Carletto. L'impresario è a Palazzo Venezia. Chi si fa i soldi non lo sa nessuno. Tirano su delle torri, dei ponti, dei cessi, non importa che cosa. Ma la gente ci vive. Anche in galera c'è chi vive. Là ti danno anche il rancio. Una cosa poi mi disse la vecchia marina. Mi aveva cercato tra la roba e sembrava scontenta. Non sei del fascio, disse un giorno. Non hai con te quella camicia. C'è bisogno di averla? È la sottana che fa il prete. Non te l'ha detto mamma tua? Vieni a Roma per fare i quattrini o per spenderne? Scosse la testa e disse ancora, stacci attento. Dei più furbi di te sono finiti in quel posto. Con il fascio, Carletto e Dorina ce l'avevano a morte. Ma era qui che Dorina maltrattava Carletto. Quando le figlie non rientravano a tempo, quando rompevano qualcosa, quando in piazza i balilla le facevano scappare, cominciava la nonna a lagnarsi che vivessero in strada, che vestissero quella divisa. E Dorina a gridare che se un uomo non capisce quel che succede nel mondo, che cosa possono fare le donne? Ce l'aveva con Carletto e col marito carcerato. Ce l'aveva con gli anni persi, coi conti sbagliati, coi quattrini non fatti. Rinfacciava a quell'altro di essere stato un illuso, a Carletto di ridere e prendere in giro. Se non fossi una donna, diceva, farei... Che faresti? Diceva Carletto. Se stai meglio di tante. Mi tornavano in mente le volte che Amelio sentiva nella tampa parlare di politica. C'era sempre qualcuno che alzava la voce e diceva che il duce non s'era sbagliato, che gli italiani stanno meglio di una volta, che a chiacchierare sono buoni tutti quanti. E dunque stai zitto, disse Amelio una sera. E guardava in quel modo che levava la voglia. Ma del fascio Dorina con me non parlava. Quando uscivamo noi due soli per andare da Carletto, lei mi chiedeva di Torino, dei negozi di mode. Mi raccontava che in teatro c'era entrata per capriccio e che a Genova aveva venduto ogni cosa, le pellicce, i gioielli, la voce. Rideva. Non so perché voi torinesi mi piacete, disse allegra. Siete dei matti, dei maligni, dei fissati. Se non avessi una famiglia, quasi quasi, io la tenevo a braccetto e pensavo a Torino. Sono a Roma, dicevo tra me. Sono a Roma. E a Torino ci pensi? Diceva lei a volte. Poi diventava malinconica e parlava dei suoi anni. Ho già una figlia che fa l'occhio ai giovanotti, non sai? Arrivava Carletto e diceva, vi ho presi. Nella nostra trattoria Dorina era ben vista da tutti. Credevo sulle prime che fosse perché aveva cantato in teatro. A volte le chiedevano di cantare, anche lì. Ma una sera succede che sento due tipi dirsi, guarda che donna. E capii che per loro Dorina era bella. Quanto avrei dato per parlarne con Carletto. Questa è Roma, dicevo tra me sbalordito. Queste sono le donne che piacciono a Roma. Feci caso per strada e mi accorsi che molti le guardavano dietro. Meno male, dissi. Così si consola. Così andavamo all'osteria ed era vera la parola di Carletto che tutta Roma è un'osteria e ci si vive. Ci venivano intere famiglie, si portavano il pollo, l'insalata, la frutta, comandavano il vino e mangiavano. Mi tornò in mente il mascherino dove passavano gli artisti. Ma là era un buco da vecchietti e c'era scuro e serviva soltanto a puttane e teatro. Qui si mangiava e si suonava, si rideva e beveva. Era il centro del rione. mi ricordavo della notte dei romani al mascherino e l'indomani e il giorno dopo e tante cose. Poi il caldo. Alla fine d'aprile le porte s'apersero e si sentiva odor di fresco ai tavolini e le viuzze erano piene di stelle. Non andò molto che portammo la chitarra, altre ce n'erano, e Carletto diceva i suoi scherzi e tutti quanti cominciarono a chiamarmi per nome. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.